cuffi, state a casa. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Hasta luego. Hasta luego. Bonucci ha cercato Giaccalini, la rigore, c'è! Oggi le difficoltà ci sono state a un certo punto della partita, però saper soffrire, saper aiutarci e tutti uniti e compatti. Hasta luego, je prends dirigeant pour rendre aux indigents. Pellè gioca con la linea, Immobile va dentro dalla parte opposta, l'apertura dentro per Candreva, Candreva, Candreva, il cross, Graziano, Pellè, 2-0, partita in ghiaccio. Hasta luego. Anche una ferita aperta di due anni fa che dimostra come dopo un'ottima partita contro l'Inghilterra noi siamo andati a casa al primo turno, però adesso noi siamo qui, giocatori che hanno capito che per fare parlare di loro e per fare qualcosa di importante devono fare qualcosa di straordinario, non di ordinario. Oggi riceviamo tutti, Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Oggi porte aperte, guarda, un amico ha scritto che non eravamo nemmeno in onda. Eccoli, eccovi lì pronti tutti a saltare sul carro del vincitore. No, ebbene no, sì, noi saltiamo. Io salto, ieri ero scettico, io salto. Tu eri un po' meno scettico. No, io ero ottimista. Tu eri euro-ottimista, quindi puoi starci. Io ero ottimista, detto questo sono rimasto sorpreso, cioè è andata meglio di quello che pensassi. Sì, ero, sì, sì, ero ottimista, cioè alcune cose le sapevo. Guarda, faccio proprio, si può dire sborone. Cioè, tu sapevi che Giaccherini si sarebbe trasformato nel migliore degli incursori, no, che Bonucci ha i piedi di Pirlo. Sì, anche Alderweireld, diciamo che è stato rivedibile. Detto questo, vabbè, benissimo, Bonucci ha fatto un lancio meraviglioso. No, io alcune cose me le aspettavo, altre cose mi hanno sorpreso in positivo. Sicuramente non mi aspettavo quel Giaccherini così capace di uno stop veramente da alla Higuain, da grande attaccante. O non mi aspettavo forse fino a questo punto di vedere un Belgio inconsistente anche per meriti dell'Italia, che li ha veramente soffocati, li ha veramente messi sotto, secondo me, sul piano proprio della... Hai sentito cosa ha detto Wilmots? Sì, varie cose. Avevamo la partita in mano, l'Italia ha rinunciato a giocare e l'ha vinta. Beh, quando rosicano sono belli da vedere. No, però Pier, noi oggi accogliamo tutti, noi accogliamo gli indovini che ieri ci hanno preso, perché se ti ricordi ce n'erano, gente che pronosticava la vittoria dell'Italia. Sì, anche un 3-0 c'era. Figurati. Poi noi accogliamo i pentiti, come me, accogliamo gli aspiranti pentiti, gli aspiranti saltatori sul carro. Accogliamo tutti, 8-0-0, 24-0-0, 24, anche quelli che sono lì un po' scettici, che dicono però due anni fa l'hai sentito Conte, no? In Brasile avevamo battuto l'Inghilterra, poi siamo andati a casa, dimenticando che qui ci si passa anche da terze, quindi diciamo che con ieri, lo diciamo? Sì. Abbiamo... no. Giorgio De Luca dice di non dirlo. Allora non lo diciamo. No, poi c'è l'altro tema di cui parleremo, anche dello scudetto di Milano del basket, e dopo le 15 abbiamo... un ospite d'eccezione, reduce dalla notte di festa dell'Olimpia Milano. C'è l'altro tema che mi sta a cuore, che è quello del contismo. Pier, da ieri sera è nato il contismo, dopo il guardiolismo, il sacchismo, il ciolismo, abbiamo il contismo. Io non so cosa ne pensi te, ma io la trovo un po' una roba all'italiana. Ma sì, ma la trovo una cosa che in realtà quasi non esiste. Io penso che Conte sia un grande allenatore. Io sono felice, oltre che per il risultato, anche perché la partita di ieri conferma che era una boiata mostruosa pensare che Conte fosse con la testa da un'altra parte. Oh, Conte lo conosciamo, ragazzi, può stare simpatico, può stare meno simpatico. Conte è un grandissimo allenatore ed è un allenatore che non molla niente, e il fatto che andrà a allenare il Chelsea, come ho detto più volte, è semplicemente il fatto che se tu hai una bellissima moglie, una bellissima fidanzata, è chiaro che sia piena di spasimanti. E Conte era pieno di spasimanti perché è bravo, e quindi godiamocelo. Sì, però dobbiamo anche dirlo che tutti i contisti di oggi, tanti contisti di oggi, sono quelli che fino a ieri contestavano i 4 milioni e mezzo di stipendio che gli passa Tavecchio con lo sponsor, contestavano il fatto che va all'europeo da allenatore del Chelsea, contestavano... Guarda, scrive un amico, che poi gli amici a casa sono maliziosi, 349-238-6666, sms e whatsapp... Per favore riconvocate il tifoso napoletano che ieri aveva lanciato strali contro la nazionale per non aver chiamato Gabbiadini, così per gradire. Che facciamo, lo richiamiamo? Ma no, ma sì, ma Gabbiadini... Sarà pentito o no, secondo te? Sarà pentito. No, no, Gabbiadini è fortissimo, però ha giocato pochissimo quest'anno, quindi era ovvio che non dovesse essere convocato. Ma no, io guardi, dico, adesso andando sullo stretto più tecnico, a ieri ne parlavamo, se non sbaglio, con Oddo, sicuramente c'erano dei giocatori come Bonaventura e come Jorginho le cui esclusioni ci hanno sorpreso. Conte ha fatto una scelta essenzialmente di energia e di quantità, però il primo risultato gli dà forza. Poi io vedo Buffon e mi sento sereno, vedo Bonucci e mi sento sereno, vedo De Rossi e mi sento sereno, cioè, anche Giaccherini sicuramente ieri ha contribuito con un'energia, con questo moto perpetuo. Penso che c'è Florenzi, per esempio, che scalpi del panchina, che è uno pieno di energia, che potrebbe essere molto utile. Penso che abbiamo Insigne che ma poi Pier, possiamo dire una cosa, che arrivati al quinto giorno di europeo pensiamo che non abbiamo visto tanto di meglio fin qui, no, però questo è un pensiero pericoloso, però questo è un pensiero questo che non si può fare pericoloso. Come quello dell'amico che scrive, esatto. Poi andiamo in traffico e dice ma non era meglio partire un po' più piano? O ad esempio, sarebbe meglio arrivare secondi in quel girone invece di andarsi a schiantare con Spagna, Croazia e Germania? Questo non lo so, ma noi accogliamo tutti. Aspetta Pier, c'è il traffico. Noi oggi accogliamo tutti. Contisti, pentiti, gufi, napoletani arrabbiati. Tutti qui, 800-24-0024, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit che mi auguro, ecco, che oggi, la partita di oggi, non appaghi minimamente la sete di questi ragazzi, la sete mia, di dimostrare che nelle difficoltà, a volte con il lavoro, si possono superare. Possiamo comunque anche essere di grande esempio. Le sensazioni, le emozioni e quello che si può trarre da questa gara sono cose molto positive, perché penso che uno spirito di gruppo così, una voglia insomma di condividere questa gioia fra tutti e tre i ragazzi, fra tutti i 23 ragazzi, penso di averla vista poche volte. Allora Pier, intanto saluto Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao, ciao a tutti. Allora, i primi due premi per la categoria salto sul carro, ma anche con sincerità, vanno a Tonio, tifoso del Napoli, che dice: ho capito perché non giocano Insigne, Jorginho e Gabbiadini, la cattiveria di Eder, Pellè e De Rossi è incredibile. E poi invece un altro, Andrea da Bologna, che scrive: appassionato di Formula 1, voglio Conte sul muretto della Ferrari. Guarda gli effetti del contismo, Pier. Sì, ma ragazzi, questa squadra ieri sera, poi il viaggio è lunghissimo, ci deve rendere orgogliosi. Se il calcio è anche metafora, se serve anche a raccontare un certo modo di essere, e lo è ovviamente soprattutto in queste grandi competizioni, la partita di ieri veramente è uno spot per quello che noi italiani dovremmo sempre essere: giocare di squadra, essere affamati, essere pieni di voglia, di grinta, colpire gli avversari sulle loro debolezze, essere consapevoli dei nostri limiti. Ieri abbiamo visto veramente uno spettacolo da questo punto di vista. Poi ovvio le partite possono girare in un modo o nell'altro, però mi sembra che il verdetto sia giusto. C'era un mezzo rigore, abbiamo avuto la palla gol con Pellè, le occasioni migliori, il vero paradosso è che l'abbiamo concesso in contropiede al Belgio, e lì immagino che Conte sia anche un po' incazzato, perché comunque sull'1-0 l'ha presa bene, soprattutto sull'errore di Darmian, l'abbiamo visto. Sull'1-0, cioè vincendo una partita, prendere un contropiede, rischiare di farsi pareggiare per una squadra come l'Italia è veramente una roba allucinante, no? Però bene, molto bene. Molto sì, bene. Molto, molto bene. Demetrio, adesso arrivo due partite tatticamente anche diverse, forse più difficili paradossalmente dal punto di vista tattico, perché dovremo imporre un pochino di più il nostro gioco, però penso che con l'Irlanda e con la Svezia, dal punto di vista della nostra qualità, che non è supersonica, ma non è nemmeno terribile, abbiamo questa possibilità. Beh, poi con Conte in panchina possiamo permetterci di tutto, no Pier? Sto scherzando ovviamente. Demetrio, tu sei un fedele del contismo? Nuova categoria dello spirito. No, oggi. Io ho detto che Antonio lo conosciamo, doveva avere tempo per lavorare, sta lavorando sul campo come piace a lui, tutte le sue squadre danno, è vero che danno, come si chiama, il massimo coltello fra i denti, ma è vero anche che lui riesce a trasferire quello che è la voglia, il senso del gruppo. Soprattutto conoscendo i propri limiti, questa squadra può avere qualche limite, l'abbiamo detto fin dall'inizio, ma che ha valorizzato tutti i suoi pregi in questa partita e quindi è stata una cosa positiva. È una partita, io son convinto che già da oggi i giocatori, noi continueremo a parlarne visto che adesso faccio parte anche del tifoso, no? Sì. Però i giocatori e l'allenatore la metteranno da parte, perché adesso, se prima avevi 7 giorni per preparare la prima partita, adesso ne hai molti meno, devi recuperare e la cosa più importante è guardare avanti adesso. Ma secondo te cambia qualcosa nelle nostre prospettive? Sì, turnover sicuro, ti aspetti che cambi molto contro la Svezia, cambi qualcosa? Non lo so, sinceramente non lo so, perché non essendo poi il gruppo non lo so. C'è da dire che due cose, ci sono diversi giocatori che hanno giocato poco nell'ultimo tempo nelle loro squadre, quindi bisognerà capire quanto avranno la forza di recuperare, come li vedrà l'allenatore in questi, non oggi, ma i prossimi due allenamenti, per poter mettere una formazione ancora con benzina e poter disputare con lo stesso piglio e autorevolezza che ha dimostrato ieri. Sì, ma cambia qualcosa, lo chiedo anche a te Pier, per le nostre prospettive in questo europeo, o sbagliamo tutto noi, perché Conte immagino da martello sia semplicemente concentrato sulla Svezia, sbagliamo tutti adesso a cominciare a sognare? Era, credo, il titolo della Gazzetta, Sogna Italia Sogna, sognare qualcosa che fino a ieri era difficile anche solo immaginare. Sai, il sogno è un tema storico, ci sono quelli che non sognano perché vogliono rimanere con i piedi per terra, perché poi se le cose non vanno ci rimangono male, ci sono quelli invece che non resistono, che tanto si godono la bellezza di una prospettiva importante. Io penso che Conte sicuramente farà tenere i piedi per terra questa squadra, anche da questo punto di vista mi sento proprio molto tranquillo e molto sereno. Certamente è una prima vittoria che può essere anche fuorviante, anche perché onestamente dal punto di vista tattico è stata ottenuta giocando in una maniera perfettamente, che è quella che noi abbiamo contro le grandi squadre. Il Belgio è più forte di noi secondo me dal punto di vista dei singoli, noi siamo molto più forti, lo siamo stati ieri sera dal punto di vista della squadra. Adesso abbiamo appunto due partite diverse, due partite contro squadre che si potrebbero anche chiudere, che potrebbero fare qualcosa di diverso, e quindi secondo me qualche complessità in più c'è. Poi per esempio c'è penso al 1996, no? La prima vittoria che ci aveva un po' illuso, insomma è lunga, mai come questa volta è lunga, perché come dicevamo ieri comunque 24 squadre ne passano 16, può passare addirittura dalla terza del girone, passa la volta, però intanto ci godiamo questa prima soddisfazione. Insomma, 2 anni fa quando si discuteva sulla scelta del commissario tecnico, proprio in questa radio parlavamo, io mi ero espresso, insomma c'era questa opportunità che era andare a prendere un grande allenatore, e nonostante le polemiche, la Puma, gli sponsor eccetera, questo grande allenatore ieri ci ha dato già secondo me un segnale molto molto forte. Oggi si può fare tirare una prima riga, Demetrio, su questo, cioè andare all'europeo con una squadra non eccelsa ma con un allenatore che forse è tra i migliori, sicuramente è tra i migliori. Forse vale anche la spesa che è stata fatta, anche banalmente in termini economici. Io personalmente non mi piace tirare le righe dopo una partita. È vero che adesso anche Pardo, Pierluigi fa i discorsi tattici, tecnici. Io sono molto più concentrato nell'ipotesi di dire che questa è una squadra che adesso deve recuperare le energie, penso che sarà così, che dovrà continuare ad avere questo atteggiamento, e lo sarà, questo sicuramente, bisognerà capire quali sono le energie che potremo mettere in campo dalla prossima partita in avanti. È l'interpretazione, non è solo il modulo tattico che è stata perfetta ieri e sarà perfetto perché tutte le squadre di Antonio sono così. L'interpretazione dei calciatori, lui trasferisce quelle convinzioni che un calciatore, ma soprattutto una squadra, devono avere quando affrontano una partita decisiva, e nell'Europeo tutte sono decisive. Sì, c'è qualche amico che scrive: via le prime donne, solo uno come Conte poteva plasmare una squadra con gente umile e affamata. C'è un altro amico che scrive: Bonucci ha fatto il lancio del gol di Giaccherini, quindi non ha risentito della mancata partecipazione allo stage. Viene in mente anche cosa potrebbe essere questa nazionale, al di là che con gli assenti, anche con un lavoro più profondo, quello che Conte aveva chiesto inutilmente per 2 anni. Vale per tutti però questo. Sì, sì, vale per tutti. Cioè, non è che in Germania se o in Francia... l'impatto di 3 settimane di stage, di lavoro, insomma, a Coverciano è questo. Sì, ma secondo me adesso, ripeto, siamo all'inizio, ha ragione Demetrio, bisogna soltanto pensare di stare concentrati. Il primo segnale, visto che abbiamo soltanto questo da valutare, è che avere un grande allenatore, scegliere un allenatore che dia un gioco a una squadra di un certo tipo, è un valore aggiunto, cioè non è un dettaglio, c'è uno spazio per allenare una squadra, non soltanto per selezionare i migliori, come si dice in qualche caso. Ieri abbiamo visto il frutto di un lavoro, si è visto che, come diceva giustamente Demetrio, negli ultimi 10-15 giorni Conte ha lavorato, ha avuto il tempo, una settimana per preparare questa partita. Noi abbiamo visto l'amichevole, poi le amichevoli per gli italiani in maniera particolare contano poco, la prima, quella a Malta contro la Scozia, così, poi quella contro la Finlandia, già si vedeva comunque un passo avanti. Ieri c'è stato veramente un big bang, un'esplosione da questo punto di vista, quindi avanti così. Io penso che ci sarà molto turnover a centrocampo, in attacco, se penso che uno come Florenzi sicuramente avrà una possibilità, penso che... Ma per dirti banalmente un'altra sottolineatura, ieri Thiago Motta è entrato alla fine della partita ed è entrato in un momento ed è stato un gran cambio nel suo piccolo, nei pochi minuti che ha giocato. Sì, potrebbe venire utile magari di più contro la Svezia, contro l'Irlanda, tra l'altro poca roba la Svezia e l'Irlanda viste ieri nella prima partita del girone. A proposito del bollettino, c'è qualche preoccupazione per Pellè, che oggi è stato portato da Castellacci, dal dottor Castellacci, a fare accertamenti medici dopo l'infortunio al mignolo della mano sinistra, lussazione completa del dito, da verificare anche un pestone a un piede. C'è la borsa, dobbiamo fermarci. Saluto Demetrio Albertini, ciao Demetrio, ciao, alla ciao prossima. Tutti, ciao, grazie. Ciao, ciao. 800 24 0024, torniamo subito. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. 800 24 0024. In questa giornata dopo la vittoria dell'Italia contro il Belgio c'è Ugo che scrive: mi sembra che i commenti si leghino troppo al risultato, facili entusiasmi, spiegatemi qual è il merito di Conte. Poi da Fiorentino: devo ringraziare il blocco della Juventus, questa è la vita. Oppure ancora: non è che il Belgio ha tante belle individualità ma poca manovra di squadra, e questo ha fatto il nostro gioco. Può essere, però Pier, poi le partite bisogna vincerle, e il Belgio resta una grande squadra e noi l'abbiamo battuta. Premesso che ovviamente tutti i commenti sono benvenuti, ma il primo di questi commenti non capisco. È chiaro che uno valuta il risultato, è ovvio che in qualche modo viene condizionato dal risultato, però la partita di ieri non è stata solo risultato, non è stata solo fortunosa. L'Italia comunque ieri ha giocato meglio del Belgio, ha costruito più palle gol, ha concesso occasioni soltanto in contropiede, ripeto, questo è un grande paradosso. Ha giocato bene, c'è poco da dire, da discutere, considerando che il Belgio sicuramente ha un livello di talento in questo momento molto superiore al nostro. Insomma, io penso che questa cosa vada detta e riconosciuta, se no non parliamo mai di niente. Sì, no, sì, allora, ma soprattutto se no non siamo coerenti con quello che abbiamo detto fino a ieri. Speriamo di no, potrebbe smentire questi entusiasmi. Però noi giudichiamo la partita di ieri, e la partita di ieri è stata vinta dalla squadra delle due probabilmente meno talentuosa, ma molto più organizzata. E se questo è successo, allora il merito è della personalità. Ecco, un altro aspetto secondo me sta nei leader, perché certamente no, ieri fra Italia e Belgio c'era una differenza di leadership enorme fra Buffon, Bonucci, Barzagli da una parte e quelli del Belgio dall'altra, che ecco, un po' teneri a livello di carattere. 800 24 00 24. Omar da Torino. Omar. Sì, buongiorno, complimenti per la vostra trasmissione. Velocemente, io ieri ero allo stadio e mi sono divertito un sacco. La prima cosa, rispondendo, anche allacciandomi a Termini Parlo, rispondendo al primo ascoltatore, ero in mezzo ai belgi e a un certo punto uno si gira da me e mi dice: ma come fa un allenatore a saltare tutta la partita così? Fino all'85esimo saltava, urlava, mangiava tutti, dal quarto arbitro ai suoi uomini. E questo si vede, i giocatori, chi gioca a calcio lo vede nel suo allenatore, e quindi di conseguenza anche loro comunque danno il massimo. È chiaro che Conte conosce il quartetto della difesa, della Juve, conosce anche Giaccherini, conosce tutto, però è un condottiero. Sì, però non si può non dire che c'è molto, moltissimo di suo dentro quello che abbiamo visto ieri sera alla Nazionale, in positivo. Poi magari arriverà il momento in cui parleremo degli errori, che pure ci sono, dei limiti, però ha ragione Omar. Banalmente, io sono d'accordissimo con questo ascoltatore, lui ha fatto, l'abbiamo detto, delle scelte che vanno più nella direzione, diciamo, della quantità, dell'energia, della ripartenza, quindi rispetto a giocatori tecnici che potrebbero essere utili. Faccio l'esempio di Jorginho e Bonaventura, magari in partite appunto contro Svezia, Irlanda, faccio l'avvocato del diavolo, speriamo di no, in partite nelle quali c'è bisogno di più manovra, di più palleggio, questo tipo di rinuncia potremmo pagarla. Ieri però intanto, in una partita che era la più complicata sulla carta del girone, questa scelta ha pagato. Io credo che vada riconosciuto tutto questo, e quindi bene. Guarda, ti leggo due messaggi, perché poi le partite ognuno le vede come vuole. Buongiorno, la verità è che ieri la Nazionale ha avuto tanti regali dall'arbitro, ci sarebbero stati almeno due rossi per due falli plateali. Invece un altro amico, Mirko, che dice: ricordate quello che vi avevo scritto ieri, paragonare il Belgio all'Italia è come paragonare gli stracci con la seta. È vero. Non riusciamo a essere compatti nemmeno dopo aver battuto 2-0 il Belgio. Secondo me hanno più seta i belgi, però noi ieri abbiamo, adesso non voglio fare del Titti fra l'altro, quindi non vorrei fare figuracce con gli stilisti all'ascolto, noi abbiamo una qualità sartoriale che loro non hanno, ecco, proprio l'ho tenuta discretamente, dai, non buttiamoci più. Noi abbiamo un taglio e un know-how e una capacità che loro non hanno. Poi ripeto, secondo me ci sono anche dei limiti del Belgio, cioè il Belgio ieri ha dimostrato, secondo me, ancora di avere tanto da fare dal punto di vista della leadership, tanti mezzi giocatori. Origi è entrato e ha fatto dei disastri, Origi ha avuto il pallone dell'1-1 sulla testa. Sì, c'è anche chi chiede se Lukaku valga davvero 50 milioni o no, ma no, ce ne sono mille di queste domande. No. Aspetta che giriamo la domanda su Conte il Sarto, Maurizio Crosetti, che saluto, ciao Maurizio. Ciao Grosso. Eccoci, buongiorno, ciao. È il Sarto che fa la differenza? Il Sarto ed è anche la capacità di fare sempre dell'artigianato, cioè a parte tutto, noi le cose le facciamo con le mani, mettiamo i punti uno per uno, qualche volta magari abbiamo anche degli aghi grezzi, per continuare la metafora, non siamo sempre Valentino, però stai sicuro che anche nella sartoria di paese, anche dal calzolaio del borgo, c'è qualcuno che lì sa lavorare davvero con le mani e non dimentica qual è poi alla fine la tradizione del nostro lavoro, senza prenderla troppo alta, che è quella, è un'applicazione. E dire, vabbè, sai che c'è, vieni a prendertelo quello che vuoi prendertelo, ma passa sopra, non dico il mio cadavere. C'è, ma insomma, c'è chi ci paragona all'Uruguay d'Europa. L'Uruguay è più lunatico, noi non siamo quella roba lì, noi non siamo un parente povero, siamo un prodotto tipico, non so come dire, siamo qualcosa che ha molto a che fare con una filiera corta, e con i prodotti tipici, ripeto, l'artigianato, ma anche il mercato sotto casa, dove magari vai a comprare il formaggio dei contadini, cioè non so come dire, non siamo sempre quelli che se la tirano, quelli che hanno la classe, quelli che hanno l'arte, però siamo quelli che hanno sempre del buon mestiere, e il mestiere alla fine nella vita, in tutti i mestieri, il mestiere aiuta anche gli artisti, non è che se sei un artista non devi avere il mestiere aiuta tutti. Con la differenza che se tu sei un artista e non hai mestiere, contempli, ti guardi i piedi. se hai soltanto mestiere ma non sei un artista, magari qualche volta puoi fare pure un mazzo così e dire. Sì, magari ai quarti di finale ci arrivi o più in là, poi insomma vedremo. Maurizio, ti piace il contismo? Ma io a parte forse l'esistenzialismo, malattia un po' italiana, è sicuramente il ciclismo, ecco, è l'unico ismo che mi piace. Gli altri non mi piacciono perché fanno sempre un po', come dire, di qualcosa che diventa, non dico una moda, ma insomma una tendenza. A me le tendenze non piacciono tanto, persino il ciolismo, pur piacendomi moltissimo il ciolo Simeone, però tutti gli ismi mi lasciano, dopodiché certo che c'è un imprinting, ma non vogliamo chiamarlo contismo, è una parola che non mi piace, anche se è di moda, e le parole diventano virali oggi, no? Al tempo dei social in mezzo minuto. A me non piace però nessun contagio virale, perché sono fatto così, mi piacciono le cose originali, quindi non lo chiamo contismo, ma certamente il marchio di Conte sulla nazionale c'è sempre stato sin dall'inizio, perlomeno per quanto riguarda, come si dice, l'approccio, l'atteggiamento mentale, l'attenzione tattica e la spinta agonistica, cioè tutte cose che non possono farci nascere fuori classe, farci diventare fuori classe, ma possono farci rendere al meglio, a parte il fatto che il piede destro di Bonucci è un piede destro da fuori classe. Questo è credo il miglior difensore, è credo il miglior difensore che c'è in questo momento. Assolutamente, i rari errori di Bonucci nascono dalla sua grande qualità, dal fatto che lui qualche volta, siccome è talmente bravo ai piedi di un centrocampista, al corpo di un difensore, qualche volta sbaglia ed esagera, ma rarissimamente, quando sbaglia su quello, ma dal punto di vista della qualità di impostazione è un giocatore clamoroso. Devo dire che io non credo che a Conte gliene freghi niente che venga coniato questo neologismo, anche perché Conte non è un allenatore, in questo Simeone la fa di complimenti da questo punto di vista, ha creato un genere letterario, no? La famosa prima pagina della Gazzetta con Che Guevara, Simeone nelle conferenze stampa, nel modo di affrontare avversari più forti di lui, ha un tipo di impostazione molto chiara, molto precisa. Conte no, Conte è un allenatore pragmatico, quindi il contismo non esiste, a meno che il contismo non sia altro che il pragmatismo, la possibilità di giocare a seconda del materiale a disposizione. Cioè Conte non è uno che, quando la Juve era dominante in Italia, non è che giocava in maniera difensiva, giocava in maniera offensiva. Ieri ha giocato in maniera cauta perché quella era la caratteristica, quindi da questo punto di vista non è andato molto pragmatico. Però con buona pace dei belgi di Wilmots, non abbiamo visto il catenaccio, non abbiamo visto il gioco all'italiano, abbiamo visto un'altra cosa. Aspetta, vi devo fermare perché siamo in traffico, poi voglio anche sapere cosa ne pensate di quell'immagine iconica del contismo, il volto tumefatto e sanguinante di Conte, per una cosa da Jalapa's Band, poi è andato a scontrarsi con Zaza durante un'esultanza, ma nelle giornate in cui va tutto bene, quella diventa anche un'immagine da prima pagina, diventa il simbolo, l'icona dell'Italia. Qualcuno ha scritto: noi siamo come quella faccia lì. Forse tu, Maurizio, se non sbaglio, su Repubblica. La nostra Italia è simboleggiata dalla faccia di Conte ieri sera, tumefatta a metà della partita contro il Belgio. Ma qualcuno l'ha scritto 60, comunque. Ho fatto 60 righe su Conte, ma quella mi pare di non averla scritto. Ho scritto qualcuno che l'ha scritto. Conte più uno. La nostra faccia, sì, però comunque è una buona idea. È una buona idea. Conte sembrava Hannibal Lecter. Si era appena mangiato il Belgio e gli era rimasto lì qualcosa. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. No, prima di salutare Maurizio Crosetti, un paio di messaggi. La differenza tra Belgio e Italia è la stessa che c'è tra Milan e Sassuolo, svogliati campioni alla Balotelli contro persone serie. Pure un amico che scrive: grande nazionale, mi spaventa un po' il calo fisico del secondo tempo, può essere d'allarme, così come il fatto che non la buttiamo dentro se non per inerzia, perché comunque ne abbiamo sbagliati anche ieri di gol. Sì, vabbè, si sa che, come dire, il mestiere del gol non è quello che facciamo con più disinvoltura con questo attacco, però il mestiere del gol si può fare anche con i centrocampisti, con i difensori, con una manovra completa, collettiva, quindi, e poi comunque può anche darsi che uno poi si sblocchi, nel senso che uno come Pelé i gol li ha sempre fatti in un campionato molto aspro, duro, di battaglia, di lotta e di governo, come la Premier, ma anche in Olanda. Quindi io non mi preoccuperei troppo per questo, e la stanchezza mi pare che riguardi tutti. Non si può non arrivare stremati a metà giugno se si è disputata la Premier o la Liga o la Serie A o anche la Liga un po' meno forse, perché lì c'è solo PSG, però insomma se saranno stanchi i nostri saranno stanchi anche gli altri, e alla fine tra chi è più stremato vince l'artigiano, anche in questo senso, perché non vinceremo gli europei, però non siamo neanche i pellegrini, non siamo neanche i più scarsi del gruppo, assolutamente. Sì, ha ragione Buffon quando ha detto ieri un po' maliziosamente, oggi siamo un po' meno scarsi di ieri, e c'era, credo, tanto in questa frase. Grazie Maurizio. Grazie a voi, ciao. Grazie Maurizio Crosetti. Pier, oggi siamo un po' meno scarsi di ieri. Esatto, in 30 secondi, ad oggi credo che ci sia stata soltanto una partita da over tutte le partite dell'Europeo, c'è cioè una partita con tre gol e più che è stata credo Slovacchia-Galles, se non sbaglio, massimo due, massimo uno, quindi questo significa che possiamo vincere anche 1-0. Fino a questo momento la strada è quella, e l'Italia da questo punto di vista non ha certamente un attacco che fa tre gol a partita o quattro gol a partita, ma ha certamente una difesa quasi imperforabile, quindi a questo punto sì, non solo, ma l'Italia ieri è stata la seconda partita sulle prime 10 a essersi chiusa con più di un gol di scarto. Esatto, e tutte e due comunque con il secondo gol ampiamente a tempo scaduto. Esatto, e poi c'è una anche questo dice qualcosa. Che secondo me sono le partite speciali, per cui mi ricordo insomma le chiacchiere con Carlo Ancelotti, ad esempio, che le partite speciali di coppe se ne intende. Ci sono delle partite che sono un altro sport. Sicuramente nelle 38 partite, nella regolarità di un campionato, la qualità del Belgio è migliore della nostra, ma anche i singoli giocatori. Poi però ci sono delle partite che sparigliano, delle partite dove il livello di adrenalina, di tensione, di preoccupazione, di ansia cresce, e lì bisogna avere degli specialisti. E noi forse ce l'abbiamo, perlomeno ce l'abbiamo più di altre squadre, per cui insomma qualche segnale di ottimismo. Sì, su una manifestazione corta come può essere un europeo qualcosa possiamo dire. Pier, sistemiamo il collegamento audio. Carmine dalla provincia di Brindisi. Carmine, salve, buongiorno. Eccoci. Niente, volevo rispondere a Pier. Prima ha detto che sicuramente i belgi hanno più sete di noi, ma noi abbiamo più fame di loro. Sì, sicuramente. E poi a quell'ascoltatore Ugo che diceva qual è il merito di Conte, ma ancora ci ha regalato la più bella partita della storia ieri, ragazzi. Correvano da tutte le parti. Sembravano dei cannibali. Sì, Pier, la più bella partita della storia mi sembra un po' tanto, però ci ha regalato una gran partita. Io sono d'accordo con questo ascoltatore qui, assolutamente, cioè è stata veramente bella, dai, è stata veramente, ripeto, il calcio poi non va sopravvalutato, però insomma se noi italiani oggi volessimo interpretare qualcosa dalla partita di ieri, dovremmo pensare che se siamo uniti e mettiamo insieme tutto il talento che abbiamo senza stare lì a dividerci, a pensare ognuno al proprio orticello, facciamo paura anche noi. Come abbiamo fatto paura a tanti, basta oggi leggere i giornali in giro per l'Europa, a partire dai francesi che hanno scritto gli italiani sono sempre eterni. Alberto da Torino. Buongiorno, grazie. Eccoci. Sentite, ieri non trovate che una pagina bellissima l'hanno scritta i nostri tifosi? Proprio belli, sereni, prima, durante, dopo. Vediamo, c'era tanta paglia durante l'anno e ieri è stato bellissimo, è stato veramente un bel momento. E poi la domanda è se non trovate che Bonucci ricordi il miglior Beckenbauer. A me, che sono abbastanza vecchio, forse voi troppo giovani, me lo ricorda tanto. Pier. Beh, complimenti per la voce perché è molto giovane. E, beh, Bonucci è fantastico. Bonucci è sì, fantastico, ripeto. I paragoni con Beckenbauer o cose simili, sì, esatto. C'è anche chi ti riprende per il paragone sullo stop di Giaccherini all'Argentina, alla Messi. Ho detto alla Higuain, ma nel senso volevo dire da grandissimo attaccante, chiedo scusa, volevo dire da grandissimo attaccante, non da Higuain. Higuain è più forte di tutti, al campionato non ci sono dubbi, ma volevo dire lo stop da grandissimo attaccante. Sui tifosi invece sono d'accordissimo, devo dire che in questi anni ho seguito un po' di competizioni, soprattutto quando si va in questi paesi dell'Europa centrale, dove ci sono tanti tifosi magari italiani di seconda generazione, figli di migranti, insomma è meraviglioso. È meraviglioso perché lì hai, credo, l'affetto e il senso di patria profondo, però non contaminato dalle miserie, dalle polemiche italiane, dalle cose che viviamo legittimamente tutti i giorni, perché poi non è che bisogna essere tutti felici e sereni col tricolore a sventolare, per carità. Però lì c'è proprio questo, il sentimento sembra ancora più intatto, no? Sembra ancora più più vivo, più vero, perché evidentemente è acuito dalla distanza, sì, del tempo. Poi il bilancio lo facciamo a fine manifestazione anche su questo, sperando che tutto quello che abbiamo visto finisca e che per i tifosi italiani rimanga il clima di gioia e di festa che abbiamo visto ieri. Io volevo farti sentire una cosa di De Rossi, ce la facciamo? Vai. A proposito di leadership. Pjanic, dal primo giorno che è arrivato è stato un compagno esemplare, professionista impeccabile, l'ho visto portare rispetto sempre a tutti, allenarsi sempre al 100%, non fare mai una pazzia, sai, che ne so, questi atteggiamenti, tanto questi calciatori di genio come lui hanno anche la parte di sregolatezza e lui non ce l'ha mai mostrata, per fortuna. L'ho visto giocare con caviglie rotte, ginocchia messe male, farsi punture per giocare. Per me un compagno, lo valuto così. Questo è De Rossi su Pjanic, e poi ti saluto Pier. Questa significa leadership nei giorni in cui Roma è in subbuglio per la cessione di Pjanic. De Rossi ha parlato così. A domani Pier. Ciao. A domani dopo il GR delle 15, ancora un po' di europeo e poi il basket, 800 24 00 24. Finisce qua, senza recupero, primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Inizia la settimana della moda, il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale, nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Tutti convocati. Fra le squadre meno forti, ecco, di questo europeo. Abbiamo fatto una buona gara, ora siamo un pochino meno scarsi di prima. Questa è la dimostrazione che l'Italia è un gruppo formato da 23 giocatori che tutti si devono far trovare pronti. Sono contento perché abbiamo fatto vedere tutto quello che abbiamo preparato, tutta la nostra grinta, la voglia di vincere questa partita, e penso che tutta la gente che ci ha seguito sia orgogliosa di noi. Sapevamo che questo doveva e poteva essere il nostro segreto. Come detto, dobbiamo continuare su questa strada con l'abnegazione vista stasera da parte di tutti. Candreva al 92esimo ha fatto la fascia perché credeva su quel pallone. Questa deve essere d'esempio per tutti quanti. È entrato Immobile, ha corso per tre. Quindi il segreto è il gruppo, dobbiamo semplicemente continuare. Avete tempo fino alle 15.30, ma ci sarà anche lo spazio del basket. 800 24 00 24, due messaggi. Saluto Giuseppe Cruciani che mi ha raggiunto. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao, chi critica l'Italia è solo per invidia, non li reputo neanche italiani. E invece c'è un amico che dice: ciao ragazzi, credo che questo clima carnevalesco debba essere un po' ridimensionato. Nel televisore di casa mia la partita è stata dominata dal Belgio. No, questo sono tutte e due sbagliati, secondo me, come messaggi. La partita è stata tatticamente e fisicamente dominata dall'Italia, c'è stata molta presunzione da parte del Belgio, però come sai Giovanni, io sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. E ci sono due cose che guardo sempre più avanti, perché c'è un clima effettivamente di trionfalismo eccessivo, come è normale in queste ore, e io e te lo sappiamo, in questo girone oggettivamente, anche andando a riguardare il modo in cui è composto il calendario, sì, in cui è composto il tabellone, arrivare primi è un incubo. È un incubo perché quasi certamente c'è Spagna-Croazia, poi detto questo, poi per vincere un europeo, per arrivare più avanti, c'è diciamo, anche chi dice la Croazia è finita dietro di noi nel girone. Sì, ragazzi, ho capito. Quindi, è meglio affrontare il qualsiasi squadra esce prima dal girone del Portogallo, Portogallo compreso, rispetto piuttosto che la Croazia o la Spagna. O la Spagna. E poi dopo e poi dopo se passi sei, c'è la Germania potenzialmente, se arriviamo primi nel girone, prima nel girone. Dall'altra parte c'è forse la Francia, cioè eviti la Francia forse. No, dall'altra parte entreresti nel giro dell'Inghilterra, che per carità ottima squadra, sì, ma certamente più giocabile della Germania. Ma oggi non è il tempo per queste cose, no, oggi è il tempo del contismo, che fa un po' con salto sul carro del vincitore. Esatto, queste sono buffonate. Che Conte fosse un allenatore capace, nessuno l'ha mai messo in dubbio, che fosse un allenatore capace di mettere in campo una squadra coerente, non c'è nessun dubbio. Evidentemente fisicamente, almeno a vedere la prima partita, ma la stessa cosa diciamo 2 anni fa in Brasile, per cui bisogna vedere, fisicamente sono arrivati a posto. Ripeto, io guardo al bicchiere mezzo vuoto perché il calendario è importantissimo in una competizione del genere. L'Italia arrivò alla semifinale dei mondiali dopo aver affrontato Australia e Ucraina, ricordiamocelo sempre, Australia e Ucraina nel 2006. Per cui è fondamentale il calendario, bisogna avere anche un pizzico di fortuna. E poi guardo alle occasioni avute dal Belgio, che ci sono state. Il Belgio non ha dominato, però ha avuto delle occasioni che non nascono da manovra, nascono certamente da abilità tattica dei singoli belgi, ma che hanno portato 2-3 volte giocatori a 2 metri dal gol di testa, Origi eccetera eccetera. E questo certamente ci deve far riflettere, perché non sono tutte rose e fiori. Sì, anche perché o noi siamo solidi dietro oppure davanti abbiamo poco da vedere. Cioè, Giovanni, se la partita, se a un certo punto Righi segna di testa a 2 metri da Buffon, magari la perdevamo. La partita cambia, la possiamo anche perdere. Vero è, qualcuno lo scrive, che le occasioni le abbiamo avute anche noi, ma facciamo bene a essere soddisfatti della partita di ieri. Ciro da Napoli, Ciro. Sì, salve. Vai. Buonasera a tutti. Allora, io la partita ieri ho visto poche partite dell'Europeo, mi sono piaciute molto la Croazia, sì. L'Italia è una bella squadra. La mia soddisfazione più grande è vedere una stessa partita ammoniti Bonucci e Chiellini, sì. Non pensavo di vederli mai ammoniti. No, ma scherzi. Per quanto mi riguarda... Quindi sei andato a Nanna soddisfatto? Eh? Sei andato a Nanna soddisfatto ieri sera, ammoniti Bonucci e Chiellini. Ah, perché lui dice che in Italia non li ammoniscono invece. Ciro. E mica lo dico io, sono i fatti. Gli unici ammoniti della Juve l'hanno avuti quando hanno vinto lo scudetto. Ma se hanno espulso Chiellini a Sassuolo, vado a memoria, a ottobre. Ma non fatemi fare quello che difende la Juve, però io trovo un argomento abbastanza povero, però prego Ciro. Per me il tifo contro è uno, tifare contro è uno stimolo. Pronto? Sì, vai. Tifare contro è uno stimolo, quindi non è una cosa che per me ci sta bene. Io non tifo contro nessuno. Beh, insomma, tifo solo per il Napoli e sembra. Napoli è la mia nazionale. Ma no, ma in Italia purtroppo c'è questa... Quindi hai tifato contro l'Italia. C'è questa mania, in Italia c'è questa mania, l'ho visto anche in moltissimi messaggi su Twitter, su web, eccetera. Io tifo solo per questo, tifo solo per la Roma, tifo dalla nazionale, non me ne frega niente. Ovviamente è legittimo, non bisogna... Però addirittura guardare una partita della nazionale e poi compiacersi dell'ammonizione, questa è perversione pura. Sì, cioè non è fare il tifo. Ieri c'è stato anche il giallo, lo sai, no? Su Twitter, da account ufficiali della Rai, che a un certo punto ha detto una cosa che non avremmo mai pensato di vedere: Chiellini ammonito. Sì, non so chi ha fatto questo. È stato rimosso, è stato rimosso il tweet, perché... intendo. Ripeto, è guardare, non fare il tifo per la nazionale, fare il tifo solo per la propria squadra. Ma ovviamente... poi, insomma, la partita di ieri certifica che le scelte di Conte sono state fatte secondo una logica, comprese le esclusioni. Io Giorginio l'avrei portato, ma se la nazionale è questa, che corre, che ha gli inserimenti, che va in verticale, Giorginio non era probabilmente il giocatore adatto. Io l'avrei portato, però Nicola da Milano. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Eccoci. Sono molto contento dell'Italia, chiaramente. Sarei il primo a gioire se poi dovesse vincere il campionato europeo. Però mi piacerebbe parlare anche del Belgio, nel senso che mi aspettavo una grossa, grossa squadra. Invece ho visto che, no, per merito anche dell'Italia probabilmente, ma a centrocampo sono proprio zero. Cioè sono la moviola del calcio, quei due signori alti con i capelli lunghi. Quindi mi sembra di capire che l'Italia... da favorita anche da questo, non si può giocare con 200 capisti. Avete capito? Sì, ascolto per radio. Ma il Belgio, io non lo so se è stato sopravvalutato o no. C'è anche chi scrive: il ranking FIFA è una buffonata, come fa a essere il Belgio secondo ed è stato per lungo tempo primo. No, che sia una buffonata, io sono d'accordo che sia una buffonata. Detto questo, il Belgio è arrivato ai quarti di finale al mondiale. Ecco, è un'ottima squadra. È un'ottima squadra, ha avuto delle assenze pesanti. Da infortuni, perché comunque sono assenze pesanti. Detto questo, io l'intensità messa dall'Italia ieri sera nei raddoppi di marcatura, a centrocampo, nel pressing, eccetera, io ho dei dubbi che possa essere sostenuta per tutto il torneo. Cioè l'Italia ha vinto competizioni o è arrivata fino in fondo giocando anche partite molto molto brutte, anche molto sporche e anche molto molto meno intense. Non ho mai visto una squadra giocare per intensità tutto un torneo. Cioè, sarebbe veramente incredibile. Tanto vediamo anche cosa succede venerdì con la Svezia e che cosa ci porta poi nella terza partita con l'Irlanda. Poca roba Svezia e Irlanda viste ieri. Sì, c'è magari però, anche il tempo per tirare un po' il fiato. Detto questo, Giovanni, c'è un elemento. Io sto parlando adesso in maniera quasi cinica o se vuoi anche fredda, no? E poi al secondo gol di Pelé ieri ero da amici in Brianza, mi sono buttato fuori dal balcone, c'era un maxi schermo in piazza. Cioè l'elemento di soddisfazione del tifo per la partita di ieri, io sono un grande tifoso dell'Italia, rimane, cioè l'Italia ha giocato una grandissima partita, però guardo ad alcune cose e mi interrogo su alcune cose, soprattutto sul calendario. Io sono ossessionato sempre dai calendari dell'incrocio, è la prima cosa che guardo quando esce un calendario. Sì, ma c'è una differenza tra le due parti del tabellone in questo europeo che è incredibile. Saluto Marino Bartoletti, ciao Marino. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, buongiorno a Giuseppe, se non ho capito male. Ciao, sì, Marino, ciao, ciao. Hai capito benissimo, edizione un po' particolare. Il mio psicofante preferito. Edizione un po' particolare. Guardi anche tu il calendario o no, Marino? Cioè io sono malato di... Sono malato di tabelloni, di questa roba. Quando esce un tabellone di un mondiale o di un europeo, la prima cosa che faccio è andare a vedere i possibili incroci. Che poi Marino ha tradotto un messaggio di un amico e adesso disperato, come facciamo ad arrivare secondi? Ma sì, è così, ragazzi. Bisogna arrivare secondi, pareggiare due partite. L'obiettivo è questo: pareggiare due partite e sperare che il Belgio le vinca tutte e due. Questa è la mia speranza: fare un punto con la Svezia, un punto con l'Irlanda e sperare in sei punti del Belgio. Top assoluto, 6-5. Adoro il pragmatismo di Giuseppe. Ma no. Ma bisogna fare così. Se pensi come abbiamo vinto il mondiale dell'82, a come ci siamo qualificati, ma sì, e certo, come andammo avanti come miglior terza, vi ricorderete, nel mondiale del 94 rotolando fino alla finale, temo che il mio pragmatissimo amico abbia assolutamente ma ragione. C'è un'eccezione però, ed è l'europeo dove incredibilmente non so se l'hai notato, sicuramente sì, l'europeo del 2000, noi giocammo in un girone dove c'erano Belgio e Svezia tutte e due insieme e vincemmo tre partite. Cioè nel 2000, sì, Giuseppe, se rigiochiamo la partita contro l'Olanda non so quante volte la vinciamo. Una volta su un miliardo, credo. Anche quello è vero, però, una volta su un miliardo. Però è vero che giocammo un girone, tre partite, vincendo una con la Turchia, 1-0 con gol di Conte, peraltro in maniera un po' particolare, con un po' di fortuna. Poi abbiamo stravinto col Belgio 2-0, un altro Belgio, vincemmo sempre 2-0, se non sbaglio, con la Svezia, la terza partita, anche inutile, eravamo già qualificati, e vincemmo un girone, credo che sia stata la prima volta che l'Italia ha vinto un girone con a punteggio pieno. Mi dai un voto a Conte? E uno al contismo anche, Marino. Guarda, lo so che è difficile gestire una trasmissione in cui ci sono Bartoletti e Cruciani contemporaneamente. Ma io vi metto insieme, subito, non c'è problema. Te lo do subito, però lasciami entrare a piedi uniti e con grande entusiasmo sul dibattito sulla qualità sartoriale, sollevato prima con grande intelligenza e grande arguzia da Pierluigi Pardo. E sai perché lo faccio? Perché io sono figlio di sarti, modestamente, e quindi posso parlare con totale cognizione di causa. Io ho visto fare i miei genitori dei vestiti bellissimi con stoffa che oggi sarebbe da 5 euro al metro. Certamente li facevano meglio con stoffa da 30 euro al metro, ma vedevo i clienti andare via contenti anche quando avevano materiale scadente. Io ho due aggettivi che adoro, che sono provinciale e artigianale, sono gli aggettivi più alti che io riesco a immaginare, da provinciale, da figlio di artigiani. Questa Italia è provinciale e artigianale, e Conte è un grandissimo artigiano, per ieri 8, ma non soltanto per ieri, anche se la parola d'ordine è piedi per terra, ragazzi. Sì. Allora, altro elemento di brutale cinismo che mi viene in mente adesso. Strano, no, ma è questo, altro elemento di brutale cinismo è questo. Allora, non so se le ammonizioni si annullano. Te lo dico io, si annullano dopo i quarti di finale. Quindi, per intenderci, chi in semifinale dovesse essere ammonito non salta la finale, ma dalla prima giornata al quarto di finale, alla seconda ammonizione, allora, scatta la squalifica. Ammonizione Chiellini e Bonucci contro la Svezia mi sembra essenziale. Cioè mi sembra una condizione sine qua non, soprattutto se magari le cose vanno come devono andare, l'Italia è prima nel girone. Cioè presentarci agli ottavi di finale magari con l'ammonizione, un'ammonizione casuale nella terza partita di Bonucci e di Chiellini sarebbe un disastro colossale. Sarebbe tafazziano. Per cui ammonizione. Comunque posso fare una riflessione su questo? Ha talmente tanto ragione Giuseppe quando parlava prima di tabelloni, che ricordatevi come siamo arrivati come un sottomarino alla semifinale dei mondiali vinti nel 2006, avvantaggiati dal tabellone. Questo è un tabellone insidioso. Invece per quanto riguarda quest'ultima riflessione, io guardo sempre le panchine oltre che guardare le formazioni. Allora, se sono tranquillizzato guardando la panchina di ieri, da che ne so, Florenzi, Sharawi, Bernardeschi, Dalde, Insigne, la parte dei difensori di riserva effettivamente un pochino mi inquieta. Quindi lunga vita alle persone che abbiamo citato fino adesso. Sì, anche sì, a Buffon che si appende alla traversa. Ma quello guarda, è incredibile. Ma l'altro elemento è che effettivamente lì c'è stata una scelta da parte di Conte, no? C'è stata una scelta, secondo me, qui in questo caso, poi magari in futuro ci dirà un'altra cosa, un po' improvvida, che è quella di non portare un difensore in più e di privilegiare diciamo, altri ruoli. Perché oggettivamente, se se ne fa male uno, adesso per carità, tocchiamoci tutti dove volete o toccate quello che volete, ma se qualcuno viene squalificato, uno tra tre, forse si può rimediare con Ogbon, con... Ma io credo ci sia una scelta però, ci sia la scelta eventualmente di passare alla difesa 4. Due è tosta. Ci sia eventualmente la scelta di passare con la difesa 4, a tanti esterni, a esterni anche difensivi, abbiamo visto, c'è Darmian, c'è De Sciglio, c'è l'ipotesi. Marino, mi dai anche un voto a tutto il resto che hai visto? Cioè, a Ibra lo do io, la leggenda gli do 4, perché onestamente ieri ha fatto lo spettatore in una partita, la prima inguardabile di tutto l'europeo. Le altre, chi ti è piaciuto e chi ti ha deluso? Allora, 4 di stima Ibra, devo dire, che rafforza sì la sua leggenda, che in Europa non vale nulla, qualunque squadra, qualunque maglia indossi. Per il resto, sai, mentre prima riflettevo sul fatto di chi consideravamo i favoriti fino all'altro giorno, beh, io non mi ricordo mica più tanto chi sono i favoriti, per la verità. Germania e Francia, te lo dico io. Se favorita è la Francia, per adesso ha meritato un 6+. Se favorita è la Germania, per adesso è un 6,5. Se favorita è la Spagna, non so se arriva alla sufficienza. Sai di chi ho paura? Della Croazia, perché la storia dice che prima o poi in penisola balcanica qualcosa potrebbero vincere. Sì, la Croazia vista ha sprecato tantissimo, non dico che ha rischiato, però poi il gol ci può sempre scappare. Diciamo che non ha ancora quella freddezza necessaria per chiudere le partite. La Croazia che c'è finita dietro il girone, diciamo. Vabbè, anche questo. Casualmente, diciamo anche questo, sì, c'è finita però, dietro nel girone. Casualmente. Comunque non ci ha mai battuto. Beh, noi abbiamo avuto anche, credo, un risultato... No, loro hanno avuto una penalizzazione. Noi però con loro non abbiamo mai perso. Abbiamo giocato a porte chiuse lì. Abbiamo giocato a porte chiuse lì, che è un po' diverso giocare in Croazia a porte chiuse oppure col pubblico. C'è una differenza fondamentale. La Croazia, diciamo, tecnicamente è superiore all'Italia. Dopodiché poi l'Italia, sistemata com'è, con i campioni in difesa che abbiamo, eccetera, se la può giocare tranquillamente anche la Croazia, per carità. A me pure la Croazia ha fatto una grandissima impressione. Mi ha stupito l'inconsistenza difensiva con la difesa che ha giocato dalla Germania, quello sì. Cioè la Germania ha concesso all'Ucraina quello che noi non avremmo mai concesso. Invece io voglio fare il pragmatico, la Germania è partita bene, cioè è partita piano, proprio per i discorsi che facevamo prima, e credo farà un europeo in crescendo. Infatti fra le favorite su Italia è quello che ho dato il voto più alto, perché comunque è regina del pragmatismo. Assolutamente lo merita. Grazie Marino. È un piacere, grazie a Marino Bartoletti. Chi è la favorita dopo averle viste? Manca il Portogallo che vediamo questa sera. Francamente credo che sia ancora la Francia, ha incontrato difficoltà, ma è normale che le squadre di casa trovino difficoltà alla prima partita, c'è un po' la pressione e tutto. La Romania si è rivelata un po' leggermente meglio di quello che delle previsioni. Certo, tatticamente possono essere imbrigliati, però il fatto che Pogba, le critiche a Pogba sono ridicole, è meglio che un giocatore non esploda subito. Sai che potrebbe restare fuori per la seconda. Sì, ma meglio, forse meglio per la Francia, eccetera. La Francia ha un girone in cui chiaramente arriverà prima, quasi, senza dubbi. Io credo che la Francia resti favorita perché ha 4-5 giocatori e soprattutto un'organizzazione. Deschamps è un ottimo allenatore. Per me è la favorita. Io mi euro, continuo a mettere sulla Germania. Grazie Giuseppe. Ciao. Parliamo ragazzi di basket. Parliamo di basket perché ieri abbiamo celebrato lo scudetto numero 27 dell'Armani. Saluto Bruno Cerella, campione d'Italia. Ciao Bruno. Ciao. Mi fate sentire il finale di ieri. Tiro libero di Sanders, fa 1-2 Rakim Sanders, ma è finita qui con il tiro sbagliato di Rimantas Kaukenas. L'Olimpia Milano è campione d'Italia, scudetto numero 27 per le mitiche scarpette rosse che completano così una stagione straordinaria, la Coppa Italia a febbraio e ora il tricolore per una storica doppietta. Come ci si sente da campione d'Italia, Bruno Cerella? Ma è una grandissima soddisfazione perché è stata una stagione impegnativa, una stagione dove all'inizio non abbiamo trovato la continuità delle vittorie in Europa e quindi magari la squadra era un po' amareggiata della non qualificazione al prossimo turno, alla top 16. però poi è arrivata la Coppa Italia e adesso nei play-off abbiamo trovato tante difficoltà, ma come si sa non è mai facile vincere e oggi posso dire che sono sì, per Reggio Emilia è stata un'avversaria fantastica. Sì, infatti è stata una battaglia dove sapevamo che sarebbe stato molto difficile andare a vincere là, perché loro hanno perso solo una partita durante tutta la stagione in casa, se non mi sbaglio, 1-2, però ieri siamo stati molto bravi a fare la nostra partita dal primo all'ultimo minuto. Ti dà fastidio sentir dire, e qualcuno lo ha detto, lo sta dicendo in queste ore, l'Armani ha vinto lo scudetto che non poteva perdere, troppo superiore, troppa differenza di budget, troppo scontato? Ah, questo non è vero, nel senso che magari il budget è molto più alto rispetto alle altre squadre, magari noi avevamo una panchina molto più lunga, una squadra fatta con altri obiettivi con rispetto alle altre squadre italiane magari, ma vincere non è mai facile, mai, lo abbiamo visto, quindi io dico che questo scudetto è il frutto di un gran lavoro di squadra durante tutta la stagione. Sì, adesso c'è da lavorare un po' sulla mancanza di continuità, anche guardando all'anno prossimo, guardando al palcoscenico europeo, che immagino sia comunque in cima alle vostre priorità. Ah, di sicuro sarebbe bello trovare continuità in Europa, no? Sappiamo che non è facile, sappiamo che competere a quei livelli ci vuole veramente un bel lavoro dietro, continuità negli anni in un progetto, come fa l'Olimpia Milano, ma ci vuole con una Milano come era tempo fa, che riuscivano a competere ad alti livelli in Europa. Penso che Milano ha le potenzialità per farlo. Adesso penso anche che sia il momento di festeggiare, di godersi l'estate e poi pensare all'anno prossimo, al futuro della società. Peccato perdere Gentile. Ha detto ieri: la mia avventura a Milano probabilmente si chiude qui. Dopo 5 anni c'è l'NBA, c'è un salto di qualità che credo meriti, ma che però lascerà l'Armani orfana comunque di un punto di riferimento. Ma questo sicuro, perché un giocatore che giovane, che ha fatto parte della storia di questa società, che ha vinto due campionati, una Coppa Italia in suoi 5 anni, un grande talento italiano, e quindi non sarà facile da rimpiazzare, però va bene, questa è la vita. Ma è pronto per andare in America o no, secondo te? Dipenderà dalla sua testa, perché come ben sappiamo il talento ce l'ha per giocare qui o per giocare là, è uguale. Perché lui è un giocatore diverso, con un talento molto superiore agli altri, talento fisico e tecnico, però ci vuole ecco, che lui si prepari mentalmente per questo salto di qualità e possa consacrarsi come un grande giocatore anche a quei livelli lì. Ormai ci siamo abituati a mandare gli italiani migliori in America, al di là dell'oceano. Grazie Bruno. Grazie a voi. Grazie a Bruno Cerella, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Che spettacolo, da brividi!